GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Porto di Trieste, arrivano le prime reazioni politiche del mondo imprenditoriale dopo che ieri il Ministero dei Trasporti ha indicato il nome di Marco Consalvo al nuovo presidente dell'Authority, dando il via ufficiale all'iter di nomina per l'attuale amministratore delegato di Trieste Airport, casella di un mosaico che dovrà ora essere occupata da un altro soggetto. A Pordenone l'incontro preparatorio in vista dell'assemblea di Confindustria con la presenza congiunta dei vertici delle due realtà regionali, Michelangelo Agrusti e Luigino Pozzo. Presentato a Udine il terzo rapporto dell'osservatorio socio-economico e dell'iniziativa Rilancia Friuli. Dopo la ripresa post-pandemica, il territorio mostra segnali evidenti di rallentamento strutturale. Scoperto e denunciato un uomo che cercava di trasportare all'estero droghe pesanti, l'intervento condotto dai finanzieri della compagnia di Cividale del Friuli nell'ambito dell'intensificazione dei controlli e valichi di confine con la Slovenia. Sciopero dei lavoratori dell'igiene ambientale proclamato da CGIL, CISL, UIL e FIADEL a sostegno della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale scaduto a fine dicembre. Presidio questa mattina in Piazza Unità a Trieste. Rinviate a causa della barcolana, a Trieste si terranno nel fine settimana le giornate d'autunno del Fondo Ambiente Italiano che nel resto della regione si sono tenute lo scorso weekend con 20 luoghi aperti. Le 12:31 minuti e 31 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Maria Spezia e Giorgio Bearz che condurranno insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 17 ottobre. Sono onorato e lusingato dell'indicazione ricevuta dal vicepresidente del Consiglio Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Adesso ci saranno le audizioni parlamentari e le commissioni Camera e Senato per completare l'iter di nomina che affronterò con rispetto e fiducia. E questo è il commento, le prime parole di Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport, alla, chiamiamola, intesa tra il ministro dei trasporti Matteo Salvini e il presidente della regione Massimiliano Fedriga sul suo nome come candidato alla presidenza dell'autorità portuale di Trieste. In studio abbiamo con noi Antonio Di Bartolomeo che ci conferma queste novità e ce ne sono poi altre? Sì, sono, come dicevi tu, sono onorato e lusingato dell'indicazione ricevuta. Queste sono le prime dichiarazioni di Marco Consalvo. Adesso ci saranno, come ha detto lui, le audizioni parlamentari delle commissioni di Camera e Senato per completare l'iter di nomina. Lui ha detto le affronterò con rispetto e fiducia. Intanto i tempi al momento non è stata ancora chiaramente calendarizzata l'audizione, perché bisogna fare tutti i passaggi che sono previsti, però se i tempi che la politica vuole imprimere vogliono essere stretti, ci sarà modo sicuramente di chiudere tutto nell'arco di una, anche due settimane. Questo è quello che arriva dagli ambienti della politica, gli ambienti del Parlamento che seguono da vicino questo iter. Dunque Marco Consalvo, attuale amministratore delegato dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, Trieste Airport, è stato indicato dal Ministero per i trasporti e le infrastrutture come prossimo presidente dell'autorità portuale, che include gli scali di Trieste e Monfalcone. La figura del presidente, lo ricordiamo, manca da oltre 500 giorni, da quando si è dimesso Zeno D'Agostino, che nei suoi anni a Trieste aveva raccolto un consenso trasversale da parte dei portatori di interesse e della politica per il suo operato. Nel mezzo tre commissari straordinari, un lungo braccio di ferro tra i partiti e al loro interno, e alla fine l'indicazione di Consalvo, nome particolarmente gradito al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che lo ha giudicato in una nota emessa ieri sera una persona di comprovata esperienza nazionale e internazionale. Consalvo può vantare dalla sua una forte crescita dell'aeroporto negli ultimi 2-3 anni in termini di passeggeri, superato il milione nel 2024, l'obiettivo dei 2 milioni di passeggeri non appare così lontano per il futuro. Soddisfazione è stata espressa in maniera unanime dai sindacati e dagli operatori portuali che spingevano per una nomina da diversi mesi, spingevano per superare questo stallo, soddisfatta anche Deborah Serracchiani del Partito Democratico, sotto la cui presidenza regionale e proprio Consalvo arrivò a Trieste, arrivò all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Come avete detto, il momento per il porto di Trieste non è dei migliori, c'è un rallentamento soprattutto per la parte dei trasbordi, si parla di meno 50% e oltre a livello di movimentazioni, dunque cali pesantissimi per quanto riguarda soprattutto il Molo Settimo, mentre altre parti del porto, per esempio i Ro-Ro, vanno ancora piuttosto bene. Dunque questa è la situazione in cui dovrà insediarsi Consalvo se la nomina andrà a buon fine. Poi c'è tutta la parte infrastrutturale che è ferma o comunque molto rallentata. Ecco, e non solo, ma c'è anche da coprire poi la casella dell'amministratore delegato di Trieste Airport, che dovrà sostituire Consalvo. A livello politico si sta già discutendo su questo tema? Diciamo che lì la maggioranza è di F2I, quindi del fondo che è proprietario al 51% dell'aeroporto, e chiaramente nominalmente spetta a questo fondo la scelta. È ancora presto per fare nomi e probabilmente ci stanno già pensando, però al momento non ci sono ancora nomi che emergono, ma è sicuro, è probabile, che è presumibile che questo fondo, che ha comunque una quota di cassa depositi e prestiti al suo interno, è probabile, presumibile che parlerà con la politica per trovare anche la soluzione più adatta per mettere alla guida dell'aeroporto di Trieste una persona competente come lo è stata, a detta della maggioranza degli operatori, Marco Consalvo. Ringraziamo Antonio Di Bartolomeo per averci aggiornato in diretta e proseguiamo con le altre notizie del nostro giornale radio. A Pordenone è stato organizzato un incontro preparatorio in vista dell'assemblea di Confindustria con la presenza congiunta dei vertici delle due realtà regionali, Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, e Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Sentiamo quest'ultimo. Due associazioni della regione per la prima volta insieme con un obiettivo, l'Europa. Perché? Insieme perché stiamo bene insieme, perché rappresentiamo meglio insieme gli interessi delle nostre imprese, delle nostre industrie, direi finalmente insieme. Per me è un valore in sé, oltre alla celebrazione di un evento importante curvato sull'interesse per l'Europa. L'agenda Draghi ha posto delle questioni stringenti e noi cerchiamo di dare una nostra interpretazione di quell'agenda dal punto di vista delle imprese, quindi sarà un evento che contiene in sé tutta una serie di suggestioni, di idee, di valori e di volontà di contribuire a costruire dal basso, dal sistema delle imprese, questa nostra Europa. Secondo me è un obiettivo fondamentale, strategico, nasce da una visione ideale, il titolo è un grande ideale, un grande progetto, una grande economia, una sola patria. La parte finale, voi capite, è un grande sogno, ma le altre tre sono la premessa perché questo accada, quindi tanti giovani saranno presenti a quell'assemblea, tutti i soggetti europei, nazionali, confindustriali, saranno lì, tutti gli stakeholder pubblici saranno lì presenti, perché solo dall'unione di tutti questi soggetti possiamo far partire da un piccolo posto una lunga marcia. Con uno sguardo anche al nord-est insieme. Il nord-est deve uscire da un'espressione geografica e diventare un fatto economico e anche politico. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella sede della regione di Udine è stato presentato questa mattina il terzo rapporto dell'Osservatorio Socioeconomico e dell'iniziativa Rilancia Friuli. L'economista Fulvio Mattioni con Furio Petrossi ha fotografato un Friuli Venezia Giulia che, dopo la ripresa post-pandemica, mostra segnali evidenti di rallentamento strutturale. Tra il 2023 e il 2025 il PIL regionale oscilla tra il meno 0,5 e il più 0,5%, con previsioni di crescita ancora minime per il prossimo futuro. Secondo i dati del documento di economia e finanza regionale dell'Istat, il Friuli Venezia Giulia resta tra i territori con le performance più deboli del nord-est e con la sola Puglia in calo occupazionale. Il sistema regge ma non evolve, certifica l'osservatorio, secondo il quale l'economia friulana è tornata stabile, ma su livelli troppo bassi per garantire un benessere diffuso. Nel primo semestre di quest'anno poi l'occupazione in Italia è aumentata dell'1,4%, mentre in Friuli Venezia Giulia è calata dello 0,3%. In parallelo la disoccupazione regionale è cresciuta dell'11,2% in confronto al 6,1% di quella nazionale. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha presentato poco fa la sua proposta sul discusso tema delle casse di espansione sul tagliamento a Varmo e la traversa di Dignano, già oggetto di una recente presa di posizione della giunta regionale. 400 ettari di terreno oggi adibiti a coltivazione tra Pinzano e Spilimbergo a ridosso del corso del tagliamento. Si dicono disponibili a metterli a disposizione della regione i proprietari riuniti nell'Associazione Agricoltori del Medio Tagliamento. Tra le ipotesi un passaggio di proprietà alla regione, terreni da riconvertirsi a opere di rinaturalizzazione e a fini di laminazione delle piene del fiume. La proposta presentata questa mattina a Trieste dal presidente dell'Associazione Erminio Barra all'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, auspice Fratelli d'Italia, col consigliere regionale Marcus Maurmair e l'europarlamentare Alessandro Ciriani. L'ipotesi, che dovrà essere vagliata dai tecnici della regione, potrà essere inclusa all'interno del DOCFAP, il documento di caratterizzazione funzionale e ambientale del progetto unico per l'intero bacino del tagliamento. Obiettivo: restituire al fiume un'area che nel tempo gli era stata sottratta fini agricoli, che possa costituire da valvola di sfogo per le piene, capace di assorbire anche 20-30 milioni di metri cubi d'acqua, è stato spiegato. Rimodulando alla luce di questo anche l'esigenza di altre opere sul tavolo degli uffici tecnici regionali, come le casse di espansione a Varmo o la contestata traversa di Dignano. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La RAI, con l'amministratore delegato Giampaolo Rossi e l'intero consiglio d'amministrazione, ha espresso massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione di Rai 3 Report, per il vile attentato che la scorsa notte ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia a Pomezia. Anche la direzione e tutti i giornalisti della testata giornalistica regionale hanno condannato con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione contro chi svolge il proprio lavoro, in questo caso come giornalista del servizio pubblico. La libertà di informazione, ha ribadito la direzione della TGR, è l'essenza della nostra democrazia e non saranno certo le minacce a fermare il dovere di raccontare la realtà. Solidarietà arriva anche dal sindacato Usi Grai, che parla di un attentato spaventoso che riporta agli anni più bui e ribadisce la vicinanza a Ranucci e ai colleghi di Report affinché possano continuare liberamente il loro lavoro di inchiesta. Solidarietà analoga dall'Unirai, che definisce l'atto gravissimo e inaccettabile ed esprime vicinanza a Ranucci e alla sua famiglia, chiedendo che le autorità indaghino con rapidità affinché sia fatta piena luce e che i responsabili siano puniti. Oggi alle 15 il comitato di redazione italiano e sloveno organizzeranno un presidio davanti alla sede RAI di Trieste per esprimere la solidarietà a Sigfrido Ranucci. Sono iniziate le ricerche per rintracciare Leonardo Santo, quarantenne di Rovere d'Empiano, che si è allontanato in modo volontario dal suo luogo di lavoro a San Donà di Piave martedì scorso, 14 ottobre, alla guida della sua vettura di alta cilindrata. Da quel momento non si hanno più sue notizie. L'uomo è alto 1,80 m, pesa 80 kg, ha i capelli castano scuri, rasati, la barba scura e occhi castani. Chiunque ne abbia notizie è invitato a contattare le forze di polizia. Denunciato un uomo che cercava di trasportare all'estero droghe pesanti. L'intervento è stato condotto dai finanzieri della compagnia di Cividale del Friuli nell'ambito dell'intensificazione dei controlli ai valichi di confine con la Slovenia, specialmente presso il valico di Stupizza, nel comune di Pulfero. Nel vano bagagli di un'autovettura con targa estera diretta in Slovenia e condotta da un cittadino 45enne della Repubblica Ceca sono stati infatti trovati, nascosti in un trolley, sacchi di plastica di piccole dimensioni contenenti diversi stupefacenti, tra cui pasticche di ecstasy, francobolli contenenti acidi LSD e cristalli di chetamina. Sono in corso approfondimenti per meglio delineare il traffico illecito e i possibili destinatari. È previsto per l'intera giornata di oggi lo sciopero dei lavoratori dell'igiene ambientale proclamato da CGIL, CISL, UIL e FIADEL a sostegno della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale scaduto a fine dicembre. Questa mattina a Trieste, in Piazza Unità, si è tenuto un presidio in concomitanza con l'incontro tra le delegazioni sindacali e il prefetto. 5 le richieste delle parti sociali alle aziende, sia pubbliche sia private, a iniziare da quella del miglioramento del trattamento economico. Ne abbiamo parlato con Luca Manni, Magnà, coordinatore regionale per l'igiene ambientale della CGIL. Di fatto, noi avendo presentato una piattaforma già in ottobre del 2024, quindi da un anno, non abbiamo ricevuto alcuna risposta, nemmeno alcuna proposta da parte dei datori di lavoro sull'aumento contrattuale. Noi vogliamo un recupero del 22-24 e naturalmente la sottoscrizione del 25-27 adeguata a quello che è l'aumento del costo della vita. Si può indicare un minimo netto di quello che è il salario di un lavoratore di settore? La media si attesta sui 1.300 come retribuzione, poi ci sono ovviamente le varie indennità notturne, festive e via discorrendo. Per quanto riguarda invece il rafforzamento di tutele su salute e sicurezza, quali sono le vostre richieste? Noi abbiamo in questo settore il più alto numero di infortuni e di morti in Italia. L'altro giorno proprio è stato investito un operatore di 38 anni da una vettura ed è grave. E abbiamo chiesto investimenti massicci, perché ce n'è uno ogni 3 giorni tra morti e feriti gravi in Italia. È il settore che ha la più alta percentuale di infortuni e di morti. Del rafforzamento degli RLS con più possibilità di operare, di controllare e di proporre delle soluzioni fattibili, sostenibili, ma assolutamente necessarie. Con 52 procedure di attivazione già approvate su circa 70 previste e un valore complessivo di quasi 423 milioni di euro, il programma regionale FESR 2021-2027 del Friuli Venezia Giulia conferma il proprio avanzamento, ponendo la regione ai vertici per capacità di programmazione e spesa dei fondi europei. Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, portando il saluto dell'amministrazione regionale ai lavori del tavolo regionale di partenariato per l'attuazione del PRFSR 2021-2027, dove sono state presentate e illustrate 3 nuove procedure di attivazione che la Regione sta per rendere operative. A queste procedure, ha aggiunto Zilli, si aggiungono 3 ulteriori importanti misure che sono al centro dei lavori del tavolo di partenariato di oggi e che la Regione attuerà a breve per un valore complessivo di circa 22 milioni. Sono ora ufficiali le dimissioni di Luca Ubaldeschi, direttore delle 7 testate veneto-friulane del gruppo Nord-Est Multimedia NEM, che include le testate Il Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Il Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso e il sito Nord-Est Economia. Già vice direttore della Stampa ed ex direttore del Secolo XIX, entrambe della casa editrice Gedi della famiglia Elkan Agnelli. NEM fa capo a Enrico Marchi, importante imprenditore del Nord-Est, presidente di Banca Fininte e di Save, che gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso e Bruxelles. Le dimissioni arrivano proprio alla vigilia di una possibile storica acquisizione da parte di NEM della Stampa. Le trattative sono in fase avanzata ed esclusiva. Ubaldeschi resterà operativo fino all'11 novembre. E alle 12:47 minuti diamo uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è sereno su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 16,5 gradi, a Gorizia e Udine 17 gradi, a Pordenone 16, a Tolmezzo 13 gradi, a Forlì di Sopra 11, a Piancavallo 10,5 gradi, a Tarvisio 9,5 gradi, a Sappada 6. Sul Monte Zoncolan 3,5 gradi, sul Monte Dussari 2 gradi, sulla costa a Lignano 16 gradi, a Grado 17,5 gradi. Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Marcellino Salvador. Per il weekend prevediamo tempo bello sulla regione, giornata di sabato simile a quella di oggi, a giornata di venerdì, quindi cielo sereno, bora moderata sulla costa, qualche raffica 50-60 all'ora a Trieste, niente di più, temperature massime intorno ai 19-20 gradi su pianura e costa, minime al di sotto dei 10 gradi in pianura di notte perché il cielo è sereno, sulla costa invece minime intorno ai 10-13 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, la bora cesserà, ma il cielo rimarrà tutto sommato sereno, al più poco nuvoloso. Comincia un po' a peggiorare per l'arrivo da ovest di correnti atlantiche che lunedì porteranno cielo coperto, preludio a una giornata di martedì che riporterà la pioggia su tutta la regione, specie sulle zone orientali. Prossima settimana, quindi, caratteristica sarà il tempo umido, con giornate grigie tipiche dell'autunno. Nel fine settimana le temperature medie saranno nella norma del periodo, Invece, per quanto riguarda il proseguo della prossima settimana, col cielo coperto non ci sarà più il raffreddamento notturno che c'è in pianura col cielo sereno, questo anche per le valli, e le temperature medie aumenteranno perché i valori minimi saranno decisamente più alti, non essendoci il raffreddamento notturno. Quindi si passerà da una situazione di temperature nella norma a temperature medie che andranno oltre la norma, dato dalla copertura del cielo. Rinviate a causa della barcolana, a Trieste si terranno nel fine settimana le giornate d'autunno del Fondo Ambiente Italiano, che nel resto della regione si sono invece tenute lo scorso weekend. Due luoghi che raccontano l'evoluzione di Trieste tra l'Ottocento e i giorni nostri. Entrambi si trovano nel Borgo Teresiano e saranno aperti al pubblico nel fine settimana, con visite guidate per le giornate d'autunno del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Sono i palazzi della Banca d'Italia e della Cassa di Risparmio. Michele Dacol, delegato regionale alla comunicazione del FAI. Via Cassa di Risparmio. Il nome lo dice da solo, c'è un palazzo, il palazzo della Cassa di Risparmio. Un palazzo imponente che oggi è sede al terzo piano della fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste, con una collezione d'arte che parla proprio della storia dell'arte giuliana, quindi dei nostri luoghi, e di cui possiamo dire la summa più recente è la collezione d'arte stock, ma anche al quarto piano l'archivio storico e le collezioni della Itz Academy. A causa della barcolana, le giornate del FAI a Trieste sono state posticipate rispetto al resto della regione, dove si sono tenute lo scorso fine settimana, con 20 luoghi dell'arte aperti e 7.000 visite complessive. Abbiamo avuto Gorizia, abbiamo avuto Cividale del Friuli, abbiamo avuto il nostro luogo del cuore a Ruda, abbiamo avuto Socchieve, ma poi l'Exploit di Valvasone, dove il castello e il mulino Mayrhof hanno veramente visto le code di oltre 1.500 persone per luogo. Questo grazie appunto ai tenutari e proprietari dei beni, che possono essere enti pubblici o realtà private, che ce lo concedono per un paio di giorni. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo agli spettacoli, giornata di debutti ieri sera in regione con le prime della stagione teatrale al Teatro Nuovo Giovanni di Udine e al Bobbio di Trieste. Apertura di stagione al Giovanni da Udine con la prima nazionale di L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, una produzione di Teatri di Pistoia in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la regia di Roberto Valerio, che ha realizzato anche l'adattamento della commedia. Commedia interpretata magistralmente da Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Vanessa Gravina è Perella, la mamma dell'undicenne Nonò, che prende lezioni private dal professor Paolino Malatesta. Da qui ne nasce una relazione e una gravidanza. Repliche fino a sabato, e questo pomeriggio a Casa Teatro alle 17.30 gli attori incontrano il pubblico. Le baruffe chiozzotte goldoniane, trasposte nella Trieste degli anni 30, alzano il sipario sulla stagione del Bobbio, la nuova produzione della Contrada è scritta da Lino Marazzo e Eva Maver con la regia di Marazzo. I litigi d'amore diventano lo sfondo per una città sospesa tra nostalgia e desiderio di futuro, interpretata da Ariella Reggio, Marzia Postogna, Maurizio Repetto, Maurizio Zacchigna, Elena Husso, Enza De Rosa, Giacomo Seguglia e Omar McLuffy. Repliche fino al 26 ottobre. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà diretto da Daniel Oren ed eseguito al pianoforte dal goriziano Alexander Gagiev, il sesto concerto della stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste. Importante il ritorno sul palco del Verdi di Oren, che in apertura proporrà uno dei pochi concerti pianistici composti da Chopin, ancora oggi considerato un caposaldo della sensibilità chopiniana nel conciliare il suo particolare pianismo con i volumi sonori della grande orchestra ottocentesca. A seguire la settima sinfonia di Beethoven, a partire dal celebre Allegretto che state ascoltando in sottofondo, che sin dal suo debutto a Vienna fu tra i brani più richiesti nei bis con l'autore in vita in tutte le più importanti capitali europee. Appuntamento alle 19.30. Si discuterà delle molteplici identità del mare Adriatico nell'incontro in cui Lucio Fumi, medico triestino attivo da decenni in Gran Bretagna, presenterà il libro del giornalista e storico statunitense Robert Kaplan intitolato Adriatico, un concerto di civiltà alla fine dell'età moderna. Appuntamento a Trieste, al Circolo della Stampa alle 17. Sotto la lente l'identità multiple del luogo, non solo come fatto storico legato a una particolare geografia, ma come opzione per il futuro del mondo. E ne abbiamo parlato con lo stesso Fumi. Quello che mi ha stupito e che mi ha attirato a questo libro è che è un libro scritto da un americano, da uno storico e giornalista americano che ha capito benissimo la realtà locale dal punto di vista storico, letterario e geografico. È un uomo innamorato di Claudio Magris, che considera il suo idolo letterario, e se dovessi paragonare questo libro a un libro con cui abbiamo familiarità, lo paragonerei a Danubio di Magris. Non è un libro di viaggi, è un libro di cultura, è un libro che ci dà una visione amplissima dal punto di vista culturale, ma non soltanto dell'Adriatico, ma anche del Levante, della Grecia e dell'Europa in generale. E soprattutto è interessantissimo perché ci propone delle prospettive utili e positive per il futuro del mondo in un momento di grande difficoltà. L'Adriatico può essere un modello. Il concetto di identità molteplici si oppone al concetto di nazionalismo e soprattutto al concetto di populismo. Kaplan è una persona che crede fortemente nell'integrazione e nella pace attraverso l'accettazione di identità molteplici, che possono essere etniche, razziali, linguistiche, culturali e così via. Quindi da questo punto di vista l'Adriatico è un modello storico, se vogliamo. Prima giornata per la 2 giorni di studio dedicata a Virgilio Giotti, considerato con Umberto Saba tra le voci più significative della poesia triestina e dei poeti dialettali del Novecento italiano. Appuntamento a Trieste, al Museo Lezzi, in Piazza Ortis, alle 15. In occasione della 34esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra, alla Casa dello Studente Antonio Zanussi di Pordenone, oggi si parlerà del Cantico delle Creature con il filologo Paolo Venti alle 15.30. Un incontro dedicato al Fondo Musicale della Comunità Greco Orientale di Trieste in programma alla Sala Xenia di Riva 3 novembre alle 17. Si parlerà di dialetti dell'Istria Meridionale all'IRCI, Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana Dalmata di Via Torino a Trieste alle 17.30. Sarà presentato anche il volume di Sandro Cernia, il dialetto di Valle d'Istria nei quaderni manoscritti di Giovanni Obrovaz. Nell'ambito della mostra Tolkien, uomo, professore e autore al Salone degli Incanti di Trieste, sono oggi in calendario 2 incontri, Tolkien nella cultura pop a cura della Cappella Underground e Tolkien al cinema Peter Jackson nel gioco delle trilogie con Oriana Paluci. Appuntamento alle 17.30. E alle 12.56 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.